Sofia, Sofia, Sofia, mio sogno di chi te lo sui. Sofia, l'uomo te ma chéri, io già lì se banchila, la lo banchina io cagamo. Yo soy el ángel.